Valodia, venuto per niente, sarebbe di nuovo scomparso senza aver compiuto la sola cosa che meritasse veramente quel lungo viaggio. Elia ce l'ebbe quasi con il signor Florian. Senza di lui non avrebbero mai saputo niente, né della resurrezione di Valodia, né della sua presenza a Parigi. E lui e Sonia avrebbero continuato a portare e a piangere nei loro cuori un defunto che si era brutalmente trasformato in uomo invisibile e introvabile. Introvabile perfino per il signor Florian, che pure si era impegnato a trovarlo. Senza il signor Florian oggi si sarebbe potuto rallegrare per Samuel Schwarzbard senza pensare ad altro che a Samuel Schwarzbard. Ma fu pensando a Valodia, che era entrato nel laboratorio dove la sua aria preoccupata e rattristata sorprese i suoi compagni, i quali per una volta si erano tenuti al corrente dell'attualità. «Non ci farà il muso, Lilic, mentre quel nostro gran chiacchierone di Torre lo sta facendo assolvere il tuo Popoff?» aveva esclamato Meunier. Elia aveva sorriso e il signor Paul era passato con un altro giornale che raccontava pressappoco la stessa cosa di quello che aveva comprato Elia. A mezzogiorno si era brindato alla prossima liberazione di Samuel e alla Francia, terra d'asilo e dei diritti dell'uomo. Senza contare la dame della Rue Blondel, aveva soggiunto Meunier per concludere il brindisi del signor Paul. Elia aveva sorriso con tutti gli altri, ma pensava a Valodia e al dispiacere di Sonia e ai fiori buttati appena appassiti. Ma ecco che nel bel mezzo del pomeriggio aveva ricevuto l'incredibile messaggio: Palazzo di giustizia, questione di famiglia. Non poteva essere che Valodia. Valodia l'aveva cercato, Valodia l'aveva trovato, Valodia l'aspettava. Era fantastico. Lasciò il laboratorio talmente in fretta che dimenticò di portar via la borsa e la gamella vuota. Era fantastico, ma sarebbe stato ancora più fantastico fra poco arrivando a casa. Busserà e quando Sonia aprirà si spingerà Valodia davanti e con il tono più normale del mondo dirà: Ho incontrato Valodia, l'ho portato per cena. Scese a Châtelet, come in passato, quando andavano alla prefettura, lui e Stepan, a far visita e a far vistare i loro documenti di stranieri prima della naturalizzazione. In passato. Era stato solo un anno e mezzo fa, ma sembrava già talmente lontano. Ci si abitua presto alla tranquillità, si disse percorrendo a grandi passi il lungo Senna dell'orologio semideserto. Era la prima volta che costeggiava le muraglie da quel lato. Scopriva ora che polizia e giustizia albergavano sotto lo stesso tetto, dividevano lo stesso palazzo. E scoprendo la Place Dauphine, scoprì anche che le porte della giustizia si aprivano maestosamente sulla più quieta delle piazzette provinciali. Aveva perfino il suo caffè. Si chiamava I Tre Scalini, perché c'erano tre scalini da salire per varcarne la soglia. Li salì a uno. Ora aveva una gran fifa. Più di Elia sarebbe stato il signor Florian a conservare il ricordo più preciso dello strano e breve incontro dei cugini Gutmann. Avvertito dal giovane collaboratore dell'avvocato Henri Torré che gli ucraini ripartivano la sera stessa per l'Ucraina, ma che sarebbero stati ai Tre Scalini per un leggero spuntino prima di prendere il treno, era stato lui a chiamare dai Mercier. Ma preoccupato all'idea che non andasse in fondo quella missione, sia pur compiuta in minima parte, anche lui aveva attraversato Parigi e si era recato ai Tre Scalini. Al banco aveva fatto conoscenza del giovane collaboratore dell'avvocato, il quale lo stava aspettando con la toga nera dal colletto bianco sotto il braccio, come un impermeabile. Gli aveva indicato una tavola in fondo intorno alla quale conversavano sette uomini. Gli avevano servito dei panini e del tè. Il signor Florian riconobbe immediatamente Valodia per via dello sfregio. Come gli altri era vestito molto bene, con abiti nuovissimi. Era bruno, ricciuto e sorrideva. Sorrideva talmente che il signor Florian pensò all'homme qui rit, ah, l'homme qui rit, ah, l'uomo che ride. Non sono voluti restare un giorno di più. Non aspettano neanche l'arringa del mio principale né la sentenza. E devo dirlo, signore, che non so se l'interprete ha tradotto la mia domanda al testimone Gutmann a proposito della sua famiglia. Mi ha sorriso quando gliel'ho fatta l'altro ieri, ma sorride sempre anche lui, benché a lui non abbiano sfregiato il viso, raccontò il giovane assistente sottovoce. Staremo a vedere quello che succederà quando arriverà il suo amico. Eccolo, disse il signor Florian, vedendo stagliarsi Elia dietro la porta vetri del caffè. Lasci fare a me, disse il giovane, dirigendosi verso il tavolo. Si chinò all'orecchio di uno degli uomini. Questi si voltò per guardare Lia che entrava. Disse qualcosa a Valodia, il quale si girò anche lui, mentre Lia tendeva la mano al signor Floriani, il cui sguardo non poteva staccarsi da Valodia. Da Valodia che guardava Elia. E ciò che accadde in quell'attimo, il lampo di felicità perdutamente triste e di sgomento in quel viso condannato al riso perpetuo, il signor Florian fu assolutamente il solo a captarlo. Valodia si era alzato e anche l'interprete, e poiché il signor Florian non lo guardava, anche Lia voltò il capo verso il gruppo che non aveva ancora notato da quando era entrato. Valodia venne avanti e fu senza un grido, in un silenzio totale, che i due uomini si strinsero. Si cullarono testa contro testa, occhi chiusi, con tanta forza e così a lungo che vacillarono come per una vertigine e dovettero aggrapparsi l'uno all'altro per non cadere come cadono gli ubriachi sul pavimento di un caffè. L'interprete era rimasto in piedi al tavolo, dove gli altri cinque uomini contemplavano la scena senza dire niente. «Vi prego, venite a prendere posto in compagnia, per favore, signori», disse con voce forte. L'invito valeva per il signor Florian, per il giovane avvocato e per Elia, che si staccò da Valodia senza però staccarne gli occhi. Un altro degli uomini si alzò e senza chiedere niente al padrone avvicinò un tavolo e tre sedie per fare una sola grande tavolata. «Cosa gradirete?» chiese amabilmente l'interprete al signor Florian che si avvicinava, all'avvocato che si sedeva e a Elia che rimaneva fermo con gli occhi negli occhi di Valodia, le mani posate sulle spalle di Valodia, con il quale non aveva ancora scambiato la minima parola. «Venga su, caro amico, noi dobbiamo affrettare», gli disse l'interprete. Aggiunse qualcosa in russo e Valodia spinse dolcemente Elia verso il tavolo. Sedendosi, Elia strinse la mano di tutti e mormorò qualche parola che il signor Florian riconobbe come Yiddish. Nessuno rispose veramente. «Amate tè o liquore?» chiese l'interprete. «Tè», risposero insieme il signor Florian, l'avvocato ed Elia. «Prego, tre tè in più», chiese l'interprete voltando la testa verso il banco. Poi, prendendo il signor Florian a testimone, si rivolse personalmente al giovane avvocato. «Cosicché noi vediamo che tutto è andato bene, signor avvocato, favorevolmente si conclude il processo». «Quasi, signor interprete, quasi», fece il giovane avvocato sorridendo. «Peccato che non aspettiate veramente la fine, la soluzione». «È molto purtroppo peccato che noi abbiamo obbligo assoluto di tornare, molto peccato», ripeté l'interprete Dimitri, scuotendo con fatalismo il capo. «Ma quando è che ripartono?» chiese allora Elia, che aveva scoperto una pila di valigie accuratamente ammucchiate in un angolo del caffè. «Nella stessa serata», precisò Dimitri con aria desolata e consultando l'orologio. «Ma non è possibile!» esclamò Elia guardando il signor Florian. «Non già ora!» Mise il suo braccio sulla spalla di Valodia e gli chiese qualcosa in Yiddish, al che Valodia cominciò a rispondere qualcosa in russo che Dimitri si accinse a tradurre via via in francese. «No, impossibile restare qualche giorno di più a Parigi. Troppo lavoro adesso là da noi. Buonissimo lavoro. Bisogna venire in visita. E Sonia, com'è Sonia? E avete fatto una famiglia?» «Sì. Sonia stava bene, avevano un bambino, Maurice», disse macchinalmente Lia in francese. «Quanti anni ha?» si informò Dimitri per proprio conto. 8 anni», rispose Lia aprendo la mano sinistra e tre dita della mano destra. 8 anni», ripeteva Lodia probabilmente in russo e scuotendo il suo viso sorridente. «Se lei avrebbe avuto pazienza, signor Gutmann, lei aspettava con Sonia che noi veniamo a cacciare il controrivoluzionario pogromista Pietriura e lei aveva fatto famiglia da noi e piccolo Maurice, oggi con 8 anni, sarà bravissimo piccolo pioniere di Ucraina». Dmitri tradusse immediatamente la sua dichiarazione per i suoi concittadini, che approvarono e sorrisero tutti insieme, il che li fece assomigliare tutti per un breve istante a Valodia. «Ma il piccolo Maurice è un bravissimo scolaro francese», disse allora il signor Florian guardando Elia. «Allora va bene», ammise Dimitri, che non ritenne necessario tradurre né la frase dell'intruso né la sua. Il padrone portò i tre tè. Nonostante il rumore che facevano le pesanti tazze da brodo viandox e i cucchiaini, il signor Florian sentì la voce di Elia rivolgere apparentemente un'altra domanda a Valodia, il quale apparentemente ebbe difficoltà a trovare una risposta immediata. «È per via che non abita più a Gitomir», disse Dimitri. «Tutti noi abbiamo città nuove e vite nuove. Noi anche le diamo indirizzi nuovi, signor Gutmann, e lei dà a noi indirizzo per prossima volta. Oppure lei viene in visita con Sonia, piccolo Maurice e nuova sorellina, no?» Elia arrossì, sorrise, prese il pezzo di carta che gli tese Dimitri. Era un foglio strappato a un taccuino rosso che aveva tirato fuori dal taschino interno. Il signor Florian stava già attendendo la sua stilografica quando, con un gesto da prestigiatore, Dimitri esibì un portamina il cui gancio d'argento ornava il suo taschino esterno. Afferrandolo, Elia fu sorpreso dal suo peso e dalla chimera d'oro massiccio che bisognava azionare per far comparire la mina. «Ricordo di un campo di battaglia, signor Gutmann. Sa, molti dei nostri sono caduti, anche molti dei loro. Ma i nostri avevano tasche vuote e bucate, i bianchi avevano tasche piene e noi gli abbiamo fatto i buchi». Dimitri scoppiò a ridere, si autotradusse immediatamente e tutti assomigliarono di nuovo a Valodia, stavolta in maniera decisamente più allegra. Il signor Florian continuava a guardare Valodia mentre Elia si applicava sulla metà del foglio a quadretti. A grosse lettere stampatello tracciò il suo nome, quello della moglie e quello del figlio e il numero di casa in una via di quella città che Valodia stava per lasciare senza aver conosciuto né la via né la casa, dove cresceva il bambino che non conosceva di una donna che forse non avrebbe riconosciuto. Dietro il sorriso tatuato della cicatrice, il signor Florian poteva leggere nello sguardo disperato di Valodia, che quelle grosse lettere stampatello tracciate sulla carta a quadretti non simbolizzavano che l'assurdità di un appuntamento mancato. Mancato perché mai dato, in un posto di cui non sapeva niente e al quale non avrebbe mai potuto pensare né allegramente né tristemente, ricopiando le lettere su una busta. In seguito, se mai avesse scritto. «Era troppo stupido e troppo triste», si disse signor Florian. «A che ora è il vostro treno?» chiese bruscamente a Dimitri. «Perché?» rispose l'interprete che faceva cenno al padrone di preparare il conto. «Pensavo che avremmo potuto portare il signor Gutmann dal cugino solo per un attimo e ve l'avremmo riportato noi alla stazione», suggerì il signor Florian con voce abbastanza bassa perché Lia non sentisse. Questi ora era chino sulla spalla di Valodia, che scriveva a sua volta sull'altra metà della carta a quadretti. «Peccato! È deliberatamente troppo tardivo, troppo, troppo, ieri molto possibile, veramente peccato!» si rammaricò sinceramente Dimitri, alzandosi e andando ad appoggiarsi sulla spalliera della seggiola di Valodia, in un atteggiamento al tempo stesso severo e paterno, esattamente quello adottato quotidianamente dal signor Florian per sorvegliare quei suoi scolari troppo inclini agli errori di distrazione. Elia decifrava ad alta voce le parole che si andavano formando in cirillico man mano che Valodia tracciava il nome di un villaggio, quello di una città, poi quello di un distretto e diversi numeri preceduti da una maiuscola. La città non era più Gitomir, era Poltava, e il nome del villaggio, come quello del distretto, non gli dicevano niente. Come gli era incomprensibile quell'indecifrabile codice cifrato. Sembrava tuttavia che Valodia gli disegnasse una grande cartolina illustrata con colori, odori, rumori e fruscii talmente familiari che lui stesso avrebbe potuto disegnarla a memoria. Valodia aveva finito. Continuava però a tenere la mano sulla carta e il portamina d'argento tra le dita e guardava Elia con il viso vicinissimo al suo. Si chinò di nuovo sulla carta, vi posò la punta nera come per cominciare una parola che non cominciò. Abbandonò il puntino nero sulla sinistra della carta a quadretti e sulla destra disegnò un cuore nel quale scrisse «Sonia, Maurice, Elia, Valodia» in cirillico. Dimitri si chinò sulla sua spalla, gli prese il portamina dalle mani, se l'agganciò al taschino esterno, afferrò il foglio a quadretti, ne piegò una metà sull'altra, premette la piega tra le dita, la ripassò con l'unghia e con un gesto tagliò il foglio a metà. tese l'indirizzo di Valodia a Elia, l'indirizzo di Elia a Valodia. Gli altri parlavano fra loro. Dmitri rimaneva in piedi. L'avvocato si alzò e insisté per pagare i tè e i panini al padrone che portava il conto. Si avviò verso il banco facendo strascicare la toga che con il colletto bianco spazzava il pavimento. Un uomo con un lungo camice grigio e un berretto in testa fece il suo ingresso. «Ora dobbiamo andare», disse Dmitri prima di ripeterlo probabilmente in russo. E tutti si alzarono. A quel punto il signor Florian si accorse che il suo vicino camminava su una gamba di legno la cui base era un grosso disco di gomma nera e che la manica destra del vicino del suo vicino era vuota. Fu lui a tendere il bastone all'uomo senza una gamba che l'aveva deposto sul mucchio di valigie delle quali l'uomo con il camice grigio si impadroniva con la disinvoltura di un portabagagli da grande albergo. Tutto si svolse allora molto in fretta. Dmitri strinse la mano del signor Florian, il solo rimasto seduto. Elia si era alzato insieme a Valodia, al quale teneva la mano come si tiene la mano di una donna o di un bambino. Ma dovette lasciarla per stringere quella che gli tendeva Dmitri. Questi si fece passare Valodia davanti e lo tenne per la spalla mentre stringeva la mano del giovane avvocato ancora al banco. Gli altri erano già usciti. Sulla soglia della porta aperta, Dmitri si fermò. Ora teneva Valodia per il braccio. «Allora, veramente, l'aspettiamo da noi, ora che ha ritrovato famiglia, signor Gutmann!» Un gran sorriso illuminava il suo bel viso liscio. Elia venne avanti, prese la testa di Valodia tra le mani, lo baciò sulla bocca e con il pollice fece il gesto che probabilmente non aveva osato fare fino a quel momento, quello che alla fine, forse, avrebbe osato fare a casa, quando, con Maurice addormentato, si fossero ritrovati soli tutti e tre, Sonia, Valodia e lui. Con il pollice, dolcemente, Elia accarezzò lo sfregio su tutta la sua lunghezza. Partiva dalla base del collo, per perdersi nella radice dei capelli, come un solco impazzito, non risparmiava sul suo passaggio che le stupende pupille azzurro-verdi, violette, dorate, in cui il signor Florian vide improvvisamente luccicare l'umorismo e Valodia disse qualcosa in Yiddish per la prima volta, per la prima e l'ultima volta. Trascinato da Dmitri, scese i tre scalini e senza voltarsi si arrampicò sulla parete posteriore di un camioncino coperto da un telone con il motore già avviato. Si mise in moto immediatamente. Elia, sulla soglia, abbozzò un gesto d'addio. Poi lasciò ricadere la mano. «Con il telone non serve a niente», disse al signor Florian che l'aveva raggiunto. Aspettò che il camion fosse scomparso per voltarsi verso di lui. «Che cosa le ha detto prima di partire?» chiese il signor Florian. Elia sorrise. «Mi ha detto, non te la prendere per me, le cicatrici piacciono alle ragazze». «Ecco quello che mi ha detto, signor Florian. E io che non gli ho neanche chiesto se era sposato, se aveva dei figli, né cosa faceva come lavoro, né niente, niente, niente, non so niente». E la frase, cominciata nel sorriso, terminò nella disperazione. E il signor Florian non trovò niente da dire. Andarono a salutare il giovane avvocato che era rimasto al banco e scesero anche loro i tre scalini. Fecero qualche passo in silenzio, poi il signor Florian si fermò e alzò la testa verso i quattro piani della vecchissima casa ai piedi della quale si era aperto il caffè dei tre scalini. «È proprio qui che visse Jean de la Fontaine, lo sa, signor Gutmann? Stasera potrà dire a Maurice che è stato nella casa di La Fontaine», soggiunse con un dolce sorriso. «Ah sì!» fece Elia, che non si ricordava più molto bene chi fosse La Fontaine, pur piacendogli talmente il lupo e l'agnello recitato da Maurice. Maurice, al quale già sapeva che non avrebbe detto niente di quello sconfortante incontro di cui non rimaneva niente. Peggio che niente, addirittura. Semmai una insopportabile impressione di abbandono, senza che ora sapesse molto bene chi fosse stato quello che aveva abbandonato, lui, Elia, lasciando salire Valodia nel camioncino coperto che lo riportava verso l'Ucraina, oppure Valodia lasciando Elia sulla porta di un caffè parigino, anticamente dimora, di un certo La Fontaine, di cui non sapeva neanche se fosse un generale, un principe, un poeta, oppure un alchimista, dei tempi remoti, di una storia di Francia che del resto lui non aveva mai imparato. Camminavano verso il metrò. «Era proprio ben vestito il mio cugino Valodia, vestito molto meglio di una volta», disse a un tratto. «Ah, vestito benissimo, effettivamente, tutti del resto», assentì il signor Florian. «Deve avermi trovato brutto con la mia vecchia giacca di cuoio. Se l'avessi saputo mi sarei vestito bene anch'io stamani, col mio completo. Stava benissimo, signor Gutmann». «No, facevo miseraccio», si ostinò Elia. Il signor Florian non disse niente, soprattutto non che gli abiti doppio petto degli ucraini erano troppo simili e troppo nuovi per non essere stati distribuiti al momento della partenza, né che aveva sorpreso l'uomo con una gamba sola a vuotare il contenuto della zuccheriera dei Trescalini nelle profondità della nuovissima tasca della sua tenuta da viaggiatore internazionale. Scendendo le scale a Châtelet, Elia si accorse che aveva dimenticato la borsa e la gamella dai Mercier. «Sonia mi striglierà», fece ridendo. Sonia. Che cosa avrebbe raccontato a Sonia? E che cosa avrebbe creduto all'annuncio che Valodia era ripartito senza essere veramente mai venuto, che non lo aveva fatto apposta, che non era colpa sua, né sua né di Valodia, ma che tutto andava bene, che si sarebbero scritti? Aveva ragione a farsi cattivo sangue. Sonia aveva preso malissimo le cose. Le aveva ammesse come vere, ma le aveva ritenute inammissibili. Anche Stepan e Olga la pensavano così, ma si erano limitati a ripetere la parola strano per non avvelenare la contrarietà di Sonia, e Elia aveva aspettato di essere in camera e al buio per lasciarsi andare dapprima un vero dolore che a poco si era trasformato in vaghissime allusioni a possibili ritorni verso le grandi pianure, le foreste di betulle attraverso le quali degli uomini nuovi tracciavano città nuove per vite nuove, vite come qui non se ne aveva idea. Sonia ascoltava e Sonia vedeva dove andava a parare perfino nel buio. Lo ascoltava mentre insieme ascoltava il silenzio della sua strada, gli scricchiolii familiari della sua casa. Toccava il palissandro del loro letto, che era come quello dell'armadio a specchio e delle due sedie comprati a rate dal Bûcheron e infine finiti di pagare. In realtà toccava legno come si tocca ferro per scongiurare il grande cartello pericolo che oscillava sopra le loro teste. E lei, che pure non era mai volgare, aveva messo le cose a punto in modo così brutale da stupirsene lei stessa, non meno di Elia. Il concetto era più o meno che bianchi, rossi, verdi o gialli, ebrei o non ebrei, gli ucraini, e in particolare quel porco di Valodia, potevano andare tutti a farsi fottere. E Elia Gutmann con loro, se li rimpiangeva così tanto. Quanto a lei, lei se ne stava lì, in casa sua, in Francia, con suo figlio, il piccolo francese. E ora voleva dormire, e domani lui non aveva che da farsi un panino o andare in trattoria dal momento che aveva dimenticato la gamella. Elia non aveva parlato più di ritorno e neanche di un viaggio da visitatori. Non aveva detto più niente su niente e aveva finito per addormentarsi dalla parte del muro, dato che sua moglie gli aveva girato la schiena. L'indomani mattina, già a Pirenè, un gruppo di strilloni annunciava l'assoluzione di Samuel Schwarzbard. Elia e Stepan ne furono talmente felici che sentirono solo quello nella cacofonia dei grossi annunci. E durante il tragitto fu tanto se Elia ebbe un pensiero per Valodia, che doveva essere ancora in viaggio tra due massicciate innevate, senza sapere che a Parigi, proprio di fronte ai Trescalini, durante la notte, 12 cittadini francesi avevano riconosciuto innocente quel fratello sconosciuto che l'aveva vendicato, lui e tutti i suoi, in nome di tutti i suoi che non erano neanche più i suoi. E fierissimo dell'ucraino naturalizzato francese Samuel Schwarzbard, fierissimo del nato francese Henri Torré, e fierissimo dei giurati buoni francesi e della Francia in generale, Elia aprì la porta del laboratorio Fratelli Mercier. Aveva proprio voglia di dirlo a tutti i suoi compagni. Sfortunatamente, ancora una volta l'attualità aveva deciso altrimenti. La notizia del giorno dai fratelli Mercier, quel giorno, era l'altra, quella che né lui né Stepan avevano ascoltato nel coro degli strilloni. Durante la notte, al largo delle coste di Bahia in Brasile, il piroscafo italiano Principessa Mafalda era affondato con tutto il carico e 1.300 persone a bordo. Così, invece di parlare del vivo di cui era stata salvata la testa, si preferiva parlare dei morti che non erano stati ripescati. E di tutti gli altri morti che non erano mai stati ripescati, quelli del Titanic e quelli dell'Lusitania e quelli della Medusa e della sua zattera e degli squali e dei pesci sega e dei mozzi così giovani e teneri che non si aspettano neanche gli squali. Ci si serve prima, tirando a sorte come dai neri. E a proposito di neri, si erano sbagliati la settimana scorsa sul giornale. Non era Rio che erano atterrati Costa e Lebrì, era Buenos Aires. È dalle stesse parti, però, ti pare? Potrebbero anche starci attenti a non scrivere a casaccio. A volte può essere grave. Sei sicuro che non si sono sbagliati per il tuo Popov? Chiese a un tratto Meunier, che trovava Lilic molto silenzioso e assente. No, no, non si sono sbagliati. E a mezzogiorno pago io l'aperitivo al caffè, disse Lia sorridendo. Sorridendo e pensando che Sonia aveva maledettamente ragione. Si stava proprio bene qui. Sonia non aveva mai più riparlato di Valodia, se non con Olga, per rallegrarsi di non averne mai parlato con la vecchia Löwenthal, che ne avrebbe fatto tutta una storia, né ai Clément, che ancora si conoscevano troppo poco. Però non aveva tolto Valodia dalla cornice dei nostri. A poco era stato ricoperto, da prima a metà, poi completamente, dopo l'ingresso di Maddi. Aveva comunque accettato di posare con Elia e Maurice per una foto scattata davanti a casa da Stepan, che Elia infilò nella prima delle lettere che spedì al B7, il nuovo villaggio vicino alla vecchia città di Poltava, nel nuovo distretto P8. Nella seconda si lamentava del silenzio, ma aveva però aggiunto un disegno di Maurice che rappresentava la sua scuola. Nella terza, che era stata brevissima, si arrabbiava sul serio. Non ce n'era stata una quarta. E neanche Stepan aveva più riparlato di Valodia, in ogni caso mai davanti a Sonia. Il che non voleva dire che non ci pensasse mai, ma quando ci pensava non era sempre spontaneamente e non era tanto a Valodia che pensava quanto all'Ucraina, o meglio, a quella che la gente chiamava la Russia, i bolscevichi o l'Unione Sovietica, a seconda di ciò che ne pensava o ne diceva. Come Felix, ad esempio, che col passare degli anni ne pensava o ne diceva sempre meglio. Elì era dispostissimo a credere a Felix, al quale voleva bene e che rispettava, ma avrebbe preferito avere informazioni più dirette. E perché non in forma di risposta a tre lettere che aveva mandato e che sembrava si fossero smarrite, dato che non le rispedivano mai al mittente, anche se il suo indirizzo era ben leggibile sul retro della busta. E siccome, dopo tutto, Felix era del mestiere, un giorno aveva affrontato l'argomento poste e comunicazioni con lui. Felix aveva ammesso che il problema dell'inoltro della posta lassù lasciava ancora a desiderare, ma che tutto non era così semplice in un immenso paese dove si imparava a leggere e insieme si scopriva che si potevano sostituire gli stracci con le scarpe e gli stivali per camminare sulla neve. 100 anni di ritardo, mio povero Gutmann, lei non si rende conto. Certo, Elia si rendeva benissimo conto e ne aveva delle buone ragioni, soprattutto per gli stivali. Lui lassù ne aveva fatti di stivali e sapeva bene che non li portavano i poveri. Però avrebbe pensato che non erano andati a scegliere solo gli analfabeti per occuparsi della trasmissione delle cose scritte e l'aveva detto a Felix ridendo. Felix quel giorno non aveva sorriso che a metà. Poi aveva detto che succedeva in tutto il mondo che la gente non rispondesse a delle lettere che le venivano spedite. Nessuno lo poteva sapere meglio di lui. In tutto il mondo c'erano dei negligenti e degli indifferenti. Lassù, meno che dalle altre parti, forse, ma lassù c'era tanto di quel lavoro da fare che forse non avevano il tempo di scrivere, soprattutto a quelli che non condividevano il lavoro che rimaneva da fare. Non l'aveva detto con cattiveria Felix, ma Elia aveva creduto di avvertirvi una leggera punta di rimprovero che per un attimo gli aveva ricordato l'interprete Dimitri, con in meno l'accento, naturalmente. Subito dopo, per concludere l'argomento corrispondenza su una nota ottimistica, Felix aveva dichiarato con voce gioiosamente profetica: «Non stia a preoccuparsi. Come dicono da noi, nessuna nuova buona nuova». E fu quel giorno che si pose per la prima volta a Elia il problema di sapere dove si collocassero esattamente i da noi di Felix, che in avvenire avrebbero posto tanti enigmi a lui, a Stepan e alle loro mogli. Aveva esitato tra la Savoia, le poste telegrafi e la Francia. Alla fine aveva optato per la Francia e fatta sua quella sorridente filosofia. A quel nessuna nuova buona nuova si era tra l'altro venuto ad aggiungere, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, altra espressione tipicamente di casa nostra e che aveva raccattato stavolta dai fratelli Mercier. Messe una dopo l'altra, costituivano una buona risposta alle domande che si poneva quando per caso pensava ancora a Valodia, senza parlarne mai. Gli anni erano passati e c'era voluto il trasloco dei Bonnet e il suo allarmante discorso d'addio. In realtà c'erano voluti Alexandre Stavisky, Adolf Hitler, Léon Daudet, Giuseppe Stalin, Maurice Thoré, Jacques Doriot, André Gide e Félix Clément perché riparlasse veramente di Volodia. Fu una sera che si credeva solo con Stepan e che Maurice li aveva interrotti proprio nel momento in cui avevano cominciato a farsi delle vere domande sul nessuna nuova buona nuova dall'Ucraina, così rassicurante se confrontato al un sacco di cattive nuove dalla Polonia e anche peggiori dalla Germania, tanto che Lia si vedeva confortato nella sua certezza che almeno in Ucraina non si tremava assolutamente più a essere ebrei. Forse allora si trema a essere ucraini, aveva suggerito Stepan. Era una strana riflessione. È vero che Stepan aveva bevuto due coppe di Julien d'Amois dai Bonnet, oppure può darsi che nessuno tremi più in Ucraina per la buona ragione che tutti sono morti senza avvertire, come Valodia che muore sempre e non scrive mai. Elia si accingeva a dire a Stepan che il miscuglio di champagne e vodka proprio non gli faceva bene quando si era presentato Maurice con la sua storia di letto da giovanotto. Naturalmente avevano cambiato conversazione e l'indomani mattina, durante il tragitto, Stepan aveva confessato che non si ricordava più molto bene di quello che aveva detto il giorno prima. Poi erano passati i mesi e si era entrati nel periodo buio, quello in cui anche in Rue de la Mar si tremava di nuovo a essere ebreo e sempre polacco, bulgaro, cecoslovacco, ungherese o ucraino, benché a Parigi. Cosicché Valodia e i silenzi dell'Ucraina. Poi Stepan era uscito dall'incubo a Bukir per essere ammesso nel delizioso giardino Chateaubriand, dove nessuno tremava. Aveva tremato e avrebbe tremato mai se non per gli eventuali capricci di un'attrice difficile o la tintura mai riuscita di un capo di merletto che stonava con un risvolto di coniglio cincillà. Naturalmente ciò non gli impediva di continuare a pensare a tutti quelli che tremavano dalle altre parti. Anche se non fosse stato tentato, non ci sarebbe riuscito. Giacché bastava un Pierre Richard Wilm per ricordarglieli. Ma era pur sempre più riposante scherzare con Pierre Richard Wilm che litigare con Hiri. E più divertente immaginarsi Federico Chopin che canticchiava in Yiddish davanti al suo piano che dover subire tutti i giorni, alla stessa ora, la lettura dei tre editoriali contraddittori di Kadima del Pariser Heint e di Naye Press. Anche più istruttivo. In 2 mesi di Copé aveva notevolmente recuperato il ritardo in francese, ora parlava bene quasi come Elia. Parli come un goi, aveva esclamato questi un giorno in tono scherzoso, e in Yiddish, unicamente in Yiddish, perché non avrebbe fatto sorridere in francese. Infatti, a meno di avere cose molto serie da dirsi, tra loro parlavano francese nel metrò. Questo risaliva all'arrivo dei tedeschi. Non volevano essere presi per quello che non erano, non volevano più farsi trattare da sporchi crucchi come gli era capitato una volta, proprio al momento in cui stavano scendendo. Ma quella domenica, seduti al sole ai tavolini del caffè di Rue des Pyrénées, che avevano scelto perché non ci conoscevano nessuno e nessuno li conosceva, avevano riparlato di Valodia in Yiddish e a bassa voce. E dal modo assai strano in cui Elia aveva annunciato che finalmente aveva notizie, Stepan aveva capito che non erano buone. Affermare che erano recenti era un modo di dire e di riferirsi al timbro postale con la data di spedizione, 17 marzo 1936, della busta che Elia si era tirato fuori di tasca. Non venivano dall'Ucraina, ma da Zurigo. La lettera che Elia tese a Stepan era battuta a macchina in francese su una carta bianca talmente leggera che era quasi trasparente. Stepan dovette metterla sul tavolino di marmo e chinarsi per leggerla. Cominciò e rialzò immediatamente la testa per guardare Lia, e Lia gli fece cenno di continuare. Ecco quello che diceva quella lettera senza intestazione né indirizzo. «Signore, sono spiacente di informarla del decesso del signor Vladimir Gutman, avvenuto nel mese di marzo 1929 nella regione di Irkutsk. Di ritorno da un viaggio di affari in URSS, mi affretto ad assolvere questa penosa missione che mi è stata affidata lassù da un compagno di lavoro del signor Vladimir Gutman, il quale, per ragioni che lei sicuramente capirà, non è stato in grado per lunghi anni di comunicarvi di persona la triste notizia. Questo signore, che ora è di ritorno a Mosca, ha molto insistito perché vi facessi sapere che durante i circa 2 anni che hanno passato l'uno a fianco dell'altro nello stesso posto, il signor Vladimir Gutman parlava spesso di voi e che il suo ultimo pensiero, prima di morire, fu per i suoi cugini di Parigi. Questo signore mi ha affidato il foglio che troverà a Cluso e grazie al quale ho potuto fare ciò che mi chiedeva. La prego di credere, signore, ai miei migliori sentimenti e alle mie più sincere condoglianze». Era firmato Duchaux o Duchard o Duchamp, non si poteva sapere. Il corrispondente o la sua segretaria aveva dimenticato di battere il nome a macchina sotto la firma d'uomo d'affari. «Ed eccolo il foglio», disse Lia, tirando fuori dal portafoglio qualcosa di grigiastro che aveva le dimensioni di una zolletta di zucchero. Spiegata, la metà della pagina strappata al taccuino rosso di Dimitri era impeccabilmente pulita all'interno, con le lettere stampatello tracciate da Lia perfettamente visibili, tranne che si strappavano lungo le pieghe. «Che cosa faceva a Irkutsk?» disse Stepan, dopo aver verificato la parola nella lettera del signor Duchaux o Duchard o Duchamp. «E dov'è Irkutsk?» «Non lo so. Non so assolutamente niente», rispose Lia, mentre rimetteva nel portafoglio il quadratino sudicio che aveva ritrovato da solo le sue pieghe. «Forse una città nuova. Insomma, non era già più a Poltava quando gli scrivevi a Poltava. Pare di sì. Però avrebbe potuto avvertire del suo cambiamento di indirizzo». «È esattamente quello che ha detto Sonia ieri sera quando le ho detto che Valodi era morto». «E perché il suo compagno non ha potuto scriverti di persona che era morto Valodia?» «Ma non tutti lassù sanno ancora leggere e scrivere», fece Lia dopo un breve silenzio. «Non solo lassù», concluse Stepan. Il che fece ridere Lia, che non era disperato, semplicemente triste. Solamente triste, perché la notizia così recente era troppo vecchia per gettarlo nel lutto. Valodi era morto. Voleva dire che non si sarebbero mai più aspettate notizie di Valodia. Era quasi come un peso in meno, non che fosse stato tanto pesante durante quei 9 anni in cui nessuna nuova buona nuova aveva funzionato piuttosto bene. Adesso si sapeva, si sarebbe saputo che nessuna nuova non voleva sempre dire buona nuova. Proprio come si sarebbe saputo che neanche lontano dagli occhi voleva sempre dire lontano dal cuore. Si sarebbe saputo che in quei 2 vecchi detti tipicamente di casa nostra a volte c'era, come diceva Felix, da bere e da mangiare. Quello che non si sapeva e che non si sarebbe mai saputo è che cosa fosse andato a fare Valodia a Irkutsk subito dopo il suo ritorno da Parigi. Perlomeno se le date indicate dal signor D erano quelle giuste, fu soprattutto di quello che parlarono dirigendosi verso i bagni docce. Uscendone si sentivano talmente freschi che parlarono d'altro e perfino di 2 ragazze che passavano in bicicletta con le gonne che si gonfiavano. Era primavera in Rue des Pyrénées e in Rue de la Mar l'alverniata aveva tirato fuori le sue 3 seggiole. Bevvero un amè picon con Gromov che prendeva il sole in attesa di Barsky e leggendo Paris Longchamp. La lettura di oggi finisce qua. Vi informo che Irkutsk è stato un campo di lavoro in Siberia dove venivano deportati i dissidenti dal regime sovietico.